terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Mercoledì sono riuscito a sequestrare Lo per qualche secondo. Era sul pianerottolo con una felpa e un paio di calzoncini bianchi, imbrattati di verde, e frugava in un baule. Dissi qualcosa che voleva essere amichevole e divertente, ma lei si limitò a stronfiare senza nemmeno guardarmi. Il disperato, agonizzante Humbert le diede un goffo colpetto sul coccige e Lo gli batté addosso, facendogli piuttosto male una delle forme da scarpe del defunto signor Hayes. «Traditore!» mi disse, mentre mi trascinavo giù per le scale, massaggiandomi il braccio con aria di grande contrizione. Non si degnò nemmeno di cenare con Am e mamma. Si lavò i capelli e andò a letto con i suoi ridicoli giornaletti. Come si sono espressi autori più illustri di me, lascerò la fantasia del lettore, eccetera, eccetera. Ma a pensarci bene, al diavolo le fantasie. Sapevo di essermi innamorato di Lolita per sempre, ma sapevo anche che lei non sarebbe stata per sempre Lolita. Il 1° gennaio avrebbe compiuto 13 anni. Entro un paio d'anni avrebbe cessato di essere una ninfetta e si sarebbe trasformata in una ragazza e poi, orrore degli orrori, in una college girl. La parola «per sempre» si riferiva solo alla mia intima passione, a quell'eterna Lolita che si rifletteva nel mio sangue. La Lolita dalle creste iliache non ancora dischiuse, la Lolita che oggi potevo toccare, annusare, udire e vedere, la Lolita dalla voce stridula e dai capelli di un sontuoso castano lisci sulla frangia mossi ai lati del viso e ricci sulla nuca e il collo caldo e appiccicoso e il lessico volgare schifo, super, bestiale, fesso, moscio. Quella Lolita, la mia Lolita. Il povero Catullo l'avrebbe perduta per sempre. Come avrei potuto sopportare di non vederla per 2 mesi di insonnie estive? 2 interi mesi sottratti ai 2 anni della sua residua età ninfea. 2 mesi di bellezza, 2 mesi di tenerezza sarebbero stati sprecati per sempre. E io non potevo farci nulla. Ma proprio nulla! Mais rien! Tuttavia, quel giovedì aveva in serbo per me nella sua coppa di ghianda una stilla di miele prelibato. La Hayes doveva accompagnare Lo alla colonia nelle prime ore del mattino. Raggiunto da svariati suoni di partenza, rotolai giù dal letto e mi affacciai alla finestra. La mia Lolita, che era salita per metà e stava per sbattere la portiera, abbassare il finestrino e salutare con la mano Luise e i pioppi, non avrebbe mai visto più né l'una né gli altri, interruppe il corso del fato, guardò su e si precipitò di nuovo in casa mentre la Hayes la chiamava concitatamente. Dopo un istante sentì il mio tesoro che saliva le scale a precipizio. Il cuore mi si dilatò con tanta forza che per poco non mi annichilì. Mi tirai su i calzoni del pigiama e spalancai la porta. In quello stesso istante arrivò Lolita col suo vestitino della festa, ansimando il passo pesante, e fu subito tra le mie braccia, la bocca innocente che si scioglieva sotto la feroce pressione di fosche mascelle maschili, mio tesoro palpitante. Un attimo dopo la udì, viva, inviolata, scendere rumorosamente le scale. Il fato riprese il suo corso, la gamba bionda si ritirò nella macchina, la portiera fu sbattuta una volta, poi una seconda, e con una violenta sterzata l'autista Hayes, le labbra di gomma rossa, torte in un flusso inaudibile di parole rabbiose, si portò via il mio tesoro. Della mia mano era colmo dell'avorio di Lolita. Sentiva ancora l'incurvatura della sua schiena pubescente, lo slittante avorio levigato dalla sua pelle attraverso il vestitino leggero che avevo mosso su e giù mentre la stringevo a me. Andai con passo fermo nella sua stanza messa a soqquadro. Spalancai l'anta dell'armadio e mi immersi in un mucchio di indumenti sgualciti che l'avevano toccata. C'era in particolare una cosetta rosa, lacera, stropicciata, con un odore leggermente acre lungo la cucitura. Vi avvolsi l'immenso, congestionato cuore di Humbert. Un caos cocente ribolliva dentro di me, ma dovetti lasciar perdere quei panni e ricompormi in fretta, perché mi resi conto che la voce vellutata della domestica mi chiamava sommessamente dalle scale. Aveva un messaggio per me, disse, e completando il mio automatico grazie con un garbato non c'è di che, la buona Louise lasciò nella mia mano tremante una lettera non affrancata dall'aspetto stranamente lindo. Questa è una confessione. Io ti amo. Così cominciava la lettera. E per un attimo, distorto, scambiai quegli isterici sgorbi per gli scarabocchi di una scolaretta. Ora sai, dunque per il piacere, fai immediatamente le valigie e parti. Te lo ordina la tua padrona di casa. Sfratto il mio pensionante, ti butto fuori, via, filare, te partè. Io sarò di ritorno all'ora di cena. se riuscirò a fare i 120 all'andata e al ritorno senza andare a sbattere. Ma che importanza avrebbe? E non voglio trovarti in casa. Ti prego, parti subito! Immediatamente! Non leggere neanche fino in fondo questo assurdo biglietto. Va via! Addio! Ma se dopo aver letto la mia confessione tu decidessi in quel tuo modo tenebroso da romantico europeo che mi trovi abbastanza attraente per approfittare della mia lettera e farmi un avance, allora saresti un criminale peggio di un rapitore che stupra i bambini, perché vedi Cherie, se tu decidessi di rimanere, se mai io dovessi trovarti ancora a casa, e so bene che non ti troverò, per questo posso continuare su questo tono, il fatto stesso che tu sia rimasto vorrebbe dire una cosa sola, che mi vuoi quanto ti voglio io, come compagna di tutta la vita, e che sei pronto a legare per sempre la tua vita alla mia e a fare da padre alla mia bambina. Addio, mio caro, prega per me, se qualche volta preghi. Ho qui riportato ciò che ricordo di quella lettera, e ciò che ricordo lo ricordo parola per parola, compreso quell'atroce francese. Era lunga almeno il doppio, ho tralasciato un passaggio lirico che al momento avevo più o meno saltato. Vi si parlava del fratellino di Lolita, morto a 2 anni quando lei ne aveva 4, e di quanto gli avrei voluto bene. La mia prima reazione fu di ripulsa e di fuga. La seconda fu come la mano serena di un amico che, posandosi sulla mia spalla, mi esortasse a prendere tempo. Così feci. Emersi dal mio stordito torpore e mi resi conto che mi trovavo ancora nella camera di Lo, al muro, sopra il letto, attaccata tra il muso di un cantante confidenziale e le ciglia di un'attrice cinematografica, c'era una reclama a piena pagina strappata da una rivista patinata. Rappresentava un giovane marito bruno con un'espressione vagamente estenuata negli occhi irlandesi. Lolita aveva tracciato una scherzosa freccetta in direzione del volto di quell'amante spossato e in stampatello aveva scritto H.H. E in effetti, nonostante qualche anno di differenza, la somiglianza era impressionante. Sotto c'era un'altra fotografia, sempre una pubblicità a colori. Un illustre commediografo fumava solennemente una dromedary. Lui fumava sempre dromedary. La somiglianza era lieve. Dopo essermi assicurato che Louise se n'era andata, mi infilai nel letto di Lo e rilessi la lettera. I'll admit New York's great, L.A. is real bait. There's only one place that's got me going gate. I got the show me Missouri blue. 'Cause I've been to Kansas City, that's the blues I gotta lose. That's where I had a man, showed me his way. Ever since that happy day, that's where I wanna stay. I got those blues, show me Missouri blues. 'Cause I've been to Kansas City, that's the blues I gotta lose. you to come back. You proved it to me. Everything is in the sack. I've got blues. Show me, show me, show me, show me the blues. Cause I've been to Kansas City. That's the blues I got. You can have what I got to keep for yourself. What I've got is too hard, ain't gonna put it on the shelf. I've got blues, oh, show me, show me, show me, show me, misery blues. Cause I've been to Kansas City, that's the blues I gotta lose. Signori! Non potrei giurare che certe manovre volte a prendere in pugno la situazione, se così posso esprimermi, non avessero già attraversato la mia mente. La quale mente non le aveva mai trattenute in forma logica, né in rapporto a circostanze ricordate con precisione. Ma non potrei giurare, lasciatemelo ripetere, di non averle vellicate, per improvvisare un'altra espressione nella mia foschia di pensiero, nella mia tenebra di passione. Possono esserci stati momenti, devono esserci stati momenti, se conosco il mio Humbert, in cui avevo evocato, per sottoporla a un esame distaccato, l'idea di sposare una matura vedova, Charlotte Hayes, per esempio, rimasta senza un solo parente nel vasto grigio mondo, all'unico scopo di potermi sollazzare con la sua bambina. Lola, Lolita. Sono persino disposto a confessare ai miei aguzzini di aver lanciato una o due fredde occhiate da estimatore alle labbra coralline di Charlotte, ai suoi capelli bronzei, alla scollatura perigliosamente profonda, e di aver vagamente cercato di sistemarla in un plausibile sogno ad occhi aperti. Lo dichiaro sotto tortura. Una tortura immaginaria, forse, ma per questo tanto più spaventevole. Dopo un po', distrussi la lettera e andai nella mia stanza. Lì ruminai, mi scompigliai i capelli, sfilai con la vestaglia viola, mugolai a denti stretti e d'un tratto, signori della giuria, come un sole distante e terribile sentì albeggiare sotto la smorfia che mi deformava la bocca un ghigno dostoieschiano. Immaginai, in condizioni di nuova e nitidissima visibilità, tutte le carezze occasionali che il marito della madre avrebbe potuto profondere sulla sua Lolita. L'avrei stretta a me 3 volte al giorno, tutti i giorni. Tutte le mie pene sarebbero svanite. Sarei diventato un uomo sano. Tenerti dolcemente sul gentil grembo e imprimere un bacio paterno sulla soave guancia. Ah, dottor Humbert. Poi, con tutta la possibile cautela sulla punta dei piedi dell'immaginazione, per così dire, evocai Charlotte come possibile compagna. Per Dio, mi sarei persino adattato a portarle quel pompelmo parsimoniosamente dimezzato, quella colazione senza zucchero. Humbert, sudato sotto l'implacabile raggio di luce bianca, schernito e preso a calci da poliziotti sudati e urlanti, ora è pronto a completare la sua deposizione. Kelmo! Mentre si rivolta la coscienza e ne strappa la più intima fodera, io non progettavo di sposare la povera Charlotte per poi eliminarla in un modo volgare, ripugnante e pericoloso, come metterle 5 compresse di bicloruro di mercurio nello sherry o qualcosa del genere, ma devo riconoscere che un pensiero farmacopeico, delicatamente affine, tintinnò nel mio cervello sonoro e offuscato. Perché limitarmi alla discreta, dissimulata delizia che avevo già sperimentato? altre visioni di voluttà mi passarono dinanzi ancheggianti e sorridenti. Mi vidi nell'atto di somministrare una potente pozione sonnifera a madre e figlia insieme, così da poter carezzare la seconda per tutta la notte con assoluta impunità. La casa era colma del russare di Charlotte, mentre Lolita, nel sonno, respirava appena immobile come una fanciulla dipinta. Mamma, ti giuro che Kenny non mi ha mai nemmeno toccata. O menti, Dolores Hayes, oppure è stato un incubus. No, non sarei arrivato a tanto. Così Humbert il Cubus macchinava e sognava, e il rosso sole del desiderio e della decisione, le due cose che creano un mondo vivo, si levava sempre più in alto, mentre su una teoria di balconi, una teoria di libertini, bicchiere scintillante in mano, brindava alla felicità di notti passate e future. Lasciato che in me, l'artista, prendesse il sopravvento sul gentiluomo. E con un grandissimo sforzo di volontà che sono riuscito in queste memorie a conservare nello stile il tono del diario che tenevo quando la Hayes era per me soltanto un ostacolo. Quel mio diario non esiste più. Ma ho ritenuto mio dovere artistico mantenerne le inflessioni, per quanto contraffatte e brutali esse mi appaiano ora. Per fortuna, al punto in cui è arrivata la mia storia, posso smettere di ingiuriare la povera Charlotte per riguardo alla verosimiglianza retrospettiva. Nel desiderio di risparmiare alla poveretta 2 o 3 ore di apprensione su una strada tutta curve ed evitarle magari uno scontro frontale che avrebbe infranto i nostri sogni divergenti, feci un premuroso ma abortito tentativo di raggiungerla per telefono alla colonia. Era partita da mezz'ora e quando al suo posto mi passarono Lo, le dissi trepido e traboccante d'orgoglio per aver così magistralmente padroneggiato il destino che avrei sposato sua madre. Dovetti ripeterlo 2 volte, perché qualcosa le impediva di prestarmi attenzione. Che bello! Disse ridendo. A quando le nozze? Aspetta un attimo, il cagnetto. C'è un cagnetto che mi morde il calzino, senti. Si sarebbe divertita un sacco, aggiunse. E io Mi resi conto che un paio d'ore al Camp Q erano bastate a cancellare con le loro nuove impressioni l'immagine del bel Lambert Humbert dalla mente della piccola Lolita. Ma che importanza aveva ormai? Non appena fosse trascorso un periodo decente dopo la cerimonia, l'avrei riavuta. A stento i fiori d'arancio sarebbero appassiti sulla tomba, come avrebbe detto un poeta. Ma io non sono un poeta. Sono soltanto un cronista molto coscienzioso. Dopo che Louise se ne fu andata, ispezionai il frigorifero e, giudicandolo eccessivamente puritano, andai in città a piedi e comprai le cibarie più succulente che potei trovare. Presi anche dei buoni liquori e due o tre tipi di vitamine. Ero quasi sicuro che con l'aiuto di quegli stimolanti e delle mie risorse naturali sarei riuscito a evitare l'imbarazzo in cui avrebbe potuto incorrere la mia indifferenza quando fosse stata chiamata a dimostrare un ardore vigoroso e impaziente. Più di una volta l'ingegnoso Humbert evocò Charlotte vista dal buco della serratura di un'immaginazione virile. Era ben fatta, molto curata. Dovevo riconoscerlo. Era la sorella maggiore della mia Lolita. Mi sarei forse potuto attenere a questo concetto se non avessi messo a fuoco con troppo realismo i suoi fianchi pesanti, le ginocchia rotonde, il busto maturo, la pelle ruvida e rosea del collo, ruvida in confronto alla seta e al miele e tutte le altre caratteristiche di quella cosa uggiosa e miseranda chiamata bella donna. Mentre il pomeriggio andava maturando nella sera, il sole fece il suo consueto giro della casa. Mi versai da bere, poi ancora e ancora gin e succo d'ananas, il mio cocktail preferito. Raddoppiano sempre le mie energie. Poi, con un palpito nel petto, assistetti al ritorno della berlina azzurra. La vidi scivolare giù per la discesa e scomparire dietro l'angolo della casa. Intravidi il calmo, pallido profilo di Charlotte. Mi venne in mente che solo salendo di sopra avrebbe potuto sapere se ero partito o no. Un minuto più tardi, con un'espressione di profonda angoscia sul viso, si affacciò a guardarmi dalla finestra di là. Facendo i gradini a quattro, riuscii a raggiungere quella stanza prima che lei ne uscisse. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, one bill. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista,